Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Walter Benzini, regista del documentario L'ultimo uomo che dipinse il cinema. Al cinema dal 6 febbraio 2020. Walter, ben trovato. Buongiorno a tutti. Raccontiamo questo nuovo progetto? Sì, questo film parla della storia professionale di uno dei più grandi cartellonisti cinematografici ancora viventi e che allo stesso tempo ho voluto anche raccontare anche quello che ha rappresentato il cartellone cinematografico nell'Italia del dopoguerra, riflettendo anche sul valore artistico del manifesto. Il film poi è anche arricchito da filmati di repertorio e dalle testimonianze anche di collezionisti, critici e personaggi del mondo cinematografico italiano, tutti quelli che hanno lavorato con lui e che ci raccontano anche degli aneddoti curiosi di alcuni manifesti di successo. Poi diciamo che anche attraverso la motion graphic, per la prima volta abbiamo dato vita a quei fotogrammi congelati da anni in cui sono racchiusi i sentimenti popolari di intere generazioni. Insomma, diciamo, ho voluto mantenere uno stile frizzante e raffinato in modo da accompagnare dolcemente lo spettatore in questo mondo così vicino e anche allo stesso tempo così lontano. Walter, per chi non conoscesse il personaggio, lo raccontiamo un po'? Diciamo che Renato Casaro è uno tra i più grandi pittori di cinema del mondo. Le sue opere più importanti sono entrate nell'immaginario collettivo di intere generazioni, perché lui ha lavorato lui con i più importanti registi di ogni tempo, da John Huston, Sergio Leone, Lelouch, D'Argento, Fassbinder, Bertolucci, Tornatore, Coppola, o Scorsese, Besson, insomma, questo soltanto per citarne alcuni. Ha lavorato durante un periodo d'oro del cinema italiano, in un'epoca in cui la televisione era agli albori, il manifesto era ovviamente il mezzo principale per portare la gente al cinema, dichiarando talvolta anche il successo o il flop di un film. La sua bravura, diciamo, gli ha permesso di lavorare su tutti i generi cinematografici. Infatti è arrivato a produrre più di 2.000 manifesti e a differenza dei colleghi italiani che facevano soltanto la versione italiana, Renato faceva le versioni anche per gli altri paesi europei e negli anni 80 anche per il mercato mondiale, quindi era lui che decideva con la sua idea e con la sua immagine quello doveva essere il cartellone, l'immagine del manifesto anche a livello mondiale. Addirittura andava a fare la versione francese, la versione inglese, la versione spagnola, la versione tedesca. E Casaro è riuscito a dare, diciamo, ai vari generi cinematografici anche una dignità figurativa tale che spesso anche i suoi manifesti diciamo, sono anche molto più belli dei film che devono pubblicizzare. E poi ad un certo punto ha scelto volontariamente di farsi da parte. Sì, perché poi diciamo, lui, l'ultimo film che ha fatto è nel 1999, che è Asterix e Obelix, perché poi diciamo è arrivato Photoshop e quindi lui ecco, da quel punto di vista lì ha deciso, anche perché aveva già l'età, di andare in pensione, anche se poi diciamo ha continuato sempre a dipingere facendo cose sue. O addirittura dalla passione che aveva si è messo addirittura a rifare dei manifesti cinematografici che lui, perché era troppo giovane, perché ancora non era all'altezza, non era riuscito a fare. specialmente proprio quelli classici del dopoguerra, da Via Volpetto a Casablanca, insomma, questo per far capire anche la passione che aveva, insomma. È anche quello che ha avuto la carriera più lunga di tutti gli altri castelluristi, perché lui ha iniziato nel 53 e appunto è finito nel 99, quando gli altri normalmente hanno smesso a metà degli anni 70 e anni 80 con la crisi del cinema. Lui invece è riuscito ad andare più avanti perché si è saputo anche rinnovare, perché dallo stile diciamo impressionista degli anni 50-60 si è trasformato negli anni 70 in una pittura realista e poi negli anni 80-90 è diventato iperrealista e quindi assomigliando molto di più a una fotografia è riuscito a lavorare nel tempo fino ad arrivare appunto a fine degli anni 90. Insomma. Walter, com'era nato tutto? L'idea è nata 3 anni fa, dopo aver visto una mostra a Firenze di bozzetti originali di Silvano Campeggi, però un altro grande cartellonista italiano. Quindi inizialmente volevo fare un film su di lui, poi appunto facendo le ricerche approfondite su questo mondo ho scoperto per fortuna il più grande di tutti, appunto, che è Renato Casaro, che tra l'altro è il più famoso all'estero in Italia, e ho scoperto anche, insomma, che da qualche anno era tornato a vivere nel suo paese d'origine a Treviso e quindi sono andato a trovarlo più volte e dopo, insomma, aver conosciuto un po' tutta la sua storia e il personaggio ho deciso di dirigere la mia attenzione su di lui e quindi di fare il film su di lui. Questo segna anche il grosso passaggio al digitale, dalla pellicola al digitale in qualche modo, e poi quello che si nota vedendo il documentario è che viene a mancare quella interpretazione, quella sintesi dello spirito di un film che fa l'artista. Se noi consideriamo, insomma, il mondo digitale di oggi in cui Photoshop ha totalmente destituito l'arte di dipingere il manifesto cinematografico, io ho sentito, diciamo, il bisogno di restituirgli anche il giusto valore e l'ho fatto anche raccontando appunto la sua vita professionale. Purtroppo, nel senso, nella storia dell'arte del Novecento ha sempre marginalizzato il manifesto cinematografico e spesso, diciamo, non l'ha preso in considerazione perché ha visto era concepito per le masse. La critica infatti ha sempre pensato che artiglioristi fossero altri, no? Io invece penso che alcuni di loro lo siano, appunto. Per esempio, alcuni manifesti di Casaro vanno oltre anche per quello per cui sono stati concepiti e si possono considerare un vero e proprio arte popolare, perché non c'è soltanto la tecnica pittoria perfetta o la genialità creativa o solamente il rimando al film, c'è anche un valore personale legato a chi lo guarda, perché comunque vengono riaccese delle emozioni, dei ricordi legati a quel vissuto. Anche a tale proposito, no? C'è Fellini che diceva che i manifesti cinematografici si fanno amare perché sono come le canzonette, no? Ti riportano a certi momenti della vita impedendoti di perderli. Ma poi, oltretutto, attraverso manifesti cinematografici noi possiamo anche ripercorrere la storia del cinema, la storia dell'illustrazione, la storia della pubblicità, la storia dell'arte e soprattutto la storia sociale e culturale di un'epoca, perché alla fine anche i manifesti hanno contribuito a quell'immaginario collettivo del XX secolo. Quindi, secondo me, è anche tempo si rivaluti questa arte, no? Questo viaggio che impressioni ti ha lasciato? Tantissima emozione, proprio perché c'è questo rimando continuo a quel punto, quel tipo del vissuto, no? Personale, ma allo stesso tempo ti rimanda anche con nostalgia, no? A un mondo che fondamentalmente non esiste più, ma che allo stesso tempo siamo molto legati, no? Specialmente il periodo d'oro del cinema italiano, appunto degli anni 60 e 70. Dove alla fine si percepisce questa grande creatività che c'era in quel periodo, che secondo me è irripetibile. La libertà che avevano tutti i personaggi, lavoravano in quel mondo lì, come come anche Renato Masaro, secondo me i grafici di oggi se la possono soltanto sognare, che veramente era un altro mondo. Era la società stessa che produceva quel tipo di arte, che oggi secondo me non c'è più. Ci sono state delle anteprime, delle presentazioni, da giovedì l'uscita in sala. Che percorso farà il documentario? Partirà la prima a Treviso, che è giovedì il 6, poi farà Firenze, poi farà Torino, poi farà Roma, al Cinema Barberini, a Torino anche, Bologna, e poi vedremo. Ecco, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti in rete? Sì, la pagina del film la potete trovare, quella su Facebook, che è Renato Casaro il film, e lì ci sarà l'aggiornamento continuo delle uscite. L'ultimo uomo che dipinse il cinema, al cinema da giovedì 6 febbraio 2020, un saluto e un ringraziamento alla regista Walter Bencini. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto, Walter. Grazie. Con l'artista Omar Rashid per parlare dello spettacolo Segnale d'allarme, la mia battaglia VR, a Roma al Teatro Argo dal 4 al 16 febbraio 2020. Omar, ben trovato. Ben trovati a voi. Ci racconti di questo esperimento teatrale? Sì, allora, quello che stiamo portando in scena, così si può dire, all'Argo, è la trasposizione in realtà virtuale di La mia battaglia, che è uno spettacolo teatrale di Ario Germano, che in questa forma ha il nome di Segnale d'allarme, La mia battaglia in VR, che vuol dire in realtà virtuale. E appunto, come dicevo, si tratta di una trasposizione, cioè qualcosa che è stato riscritto in parte nel testo aereo, in parte a livello proprio di messa in scena da parte di entrambi, per ricreare qualcosa il più vicino possibile, ma anche rafforzato di alcuni concetti di ciò che la gente si trovava in teatro. Tecnicamente cosa succede? Che gli spettatori verranno invitati a indossare un visore di realtà virtuale, che tecnicamente annulla il senso della vista, il senso dell'udito, e li sostituisce con qualcosa di virtuale, e in questo caso sarà appunto questo spettacolo. Quindi lo spettatore, indossando il visore, si troverà in prima fila in un teatro in cui abbiamo girato appunto questo spettacolo. Sarà un film visto dall'interno, vissuto dall'interno, in particolare da una prima fila di un teatro. Praticamente ogni persona sarà seduta una accanto all'altra, ma sarà da un'altra parte con la testa. Esattamente, tecnicamente funziona proprio che tutti saranno seduti in sala, quindi accanto a persone reali, indosseranno il visore, si troveranno teletrasportati in un altro teatro, che è il Teatro di Riccione, lo Spazio Fondelli, che diciamo anche coprodotto l'opera, e appunto si troveranno tutti teletrasportati in prima fila in questo teatro con accanto spettatori virtuali, perché comunque quando noi abbiamo girato Segnale d'allarme avevamo un pubblico che fa parte dello spettacolo. Infatti un altro aspetto importante da sottolineare è la possibilità, no, che ha lo spettatore di guardarsi intorno e guardare anche il pubblico, che comunque è parte stessa, parte integrante dello spettacolo. Quando è stata realizzata questa registrazione? L'abbiamo registrato circa un anno fa, che era febbraio 2019. Ribadisco, giusto per sottolinearlo, che non è la ripresa di uno spettacolo, è una data off, in cui appunto sono state fatte dei cambiamenti strutturali, sia di testo che di messa in scena, proprio per andare incontro alle esigenze di ripresa. Cioè, quindi non sarà esattamente come aver assistito a uno spettacolo teatrale, ma qualcosa di diverso. Mm-hmm. Anche perché la tecnologia ci consente questo. Ecco, in questa nuova operazione rispetto allo spettacolo integrale, su cosa avete voluto puntare l'attenzione? La tematica è esattamente la stessa, sì. Cioè, comunque è quasi un esperimento sociale in cui Elio manipola il pubblico, e quello che abbiamo fatto nella realtà virtuale è aggiungere un livello, diciamo, in più simbolico, che è quello della realtà virtuale, che comunque è un ulteriore mezzo di, cioè non tanto la realtà virtuale di per sé, ma la tecnologia in generale, è un ulteriore strumento, diciamo, di manipolazione, no? E quindi in qualche maniera abbiamo voluto anche criticare il mezzo stesso, no? Nel senso che noi, cioè, comunque stiamo lavorando da un po' di tempo con Elio sulla ricerca e sperimentazione in questo ambito, proprio perché, cioè, comunque è un linguaggio, una tecnologia che nasce per l'isolamento, comunque per fare esperienze individuali al massimo livello, no? Perché comunque nel momento in cui uno si immerge in questa realtà è taglia fuori quella reale, no? E proprio perché è un prodotto nato per la fruizione individuale, per noi è stata importante invece la sfida di farlo, di farne un'esperienza collettiva e sociale, quindi appunto, come abbiamo detto, gli spettatori andranno in sala e saranno seduti ad altre persone per fare un'esperienza totalmente individuale, e questa cosa qui dà un ulteriore livello di lettura all'opera stessa, perché comunque isolare una persona nella visione è un qualcosa che ci permette di togliergli qualsiasi tipo di appiglio, no? Cioè, nel senso, non hai la possibilità di confrontarti con il tuo vicino, non hai la possibilità di guardare il cellulare, non hai la possibilità di guardare l'orologio, no? Che sono tutte distrazioni che purtroppo ormai hanno trovato casa anche nei cinema e nei teatri, no? E sì, invece la realtà virtuale ci permette proprio di farti fare questo viaggio a senso unico, totalmente immerso e senza appigli, appunto. Tra l'altro, come accennavi prima, non è la prima volta che lavorate insieme sulla realtà virtuale, siete stati anche in India. Siamo stati anche in India, siamo stati nel Baobab, che era il centro d'accoglienza di Roma, per un altro progetto ancora, e abbiamo fatto diversi esperimenti e progetti. Ora, per l'appunto, il lavoro in India è stato girato prima, un anno prima di questo, ma ancora non è uscito, proprio perché è un lavoro totalmente diverso, perché in questo caso si è trattato di fare un cut unico, cioè tutta la ripresa è unica. Nel caso dell'India ci siamo trovati con 60 ore di girato e a ricostruire un qualcosa che è più montato, più vicino all'esperienza cinematografica, ci ha richiesto molto più tempo, anche perché comunque stiamo lavorando su una tecnologia molto acerba, no? E che comunque richiede una lunghissima fase di post-produzione. Segnale d'allarme a teatro, e come proseguirà poi? Noi l'abbiamo presentato a diversi festival a partire da maggio scorso fino a settembre, quando siamo stati a Venezia. Poi da ottobre un tour in giro per l'Italia. Appunto, stiamo mandando 60 visori a replica e tendenzialmente facciamo 2-3 repliche a giornata. Per il momento sta girando, ora finalmente è arrivato a Roma. Sarà 2 settimane e poi riparte il tour che ci porterà, insomma, ancora in giro per l'Italia. Cioè, dal giorno dopo Roma saremo a Bologna, poi successivamente a Milano, Franco Parenti. Insomma, sta girando molto. Quali sono i riscontri di questi mesi? Sorprendentemente per noi in primis molto positivi, perché comunque quando ci siamo approcciati a questo ulteriore progetto pensavamo che, come tutti gli altri che avevamo fatto, rimaneva una roba molto di nicchia, molto quasi per noi, no? Cioè quasi come soddisfazione individuale. Invece siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che la risposta è stata molto positiva da tutte le fasce d'età. Cioè, sicuramente la tecnologia in sé ha fatto dei passi in avanti, nel senso che comunque se inizia a parlare, la gente inizia ad avere un'idea un pochino più consapevole di che cos'è, per quanto sia ancora presto. Però devo dire che, insomma, ora stiamo tornando da 4 giorni, siamo stati a giro con Elio, abbiamo fatto un po' Città del Nord Italia, Verona, Novara, Vercelli, e devo dire che in queste repliche che abbiamo seguito noi c'è stata molta partecipazione, e nonostante la tecnologia spinta al massimo, perché comunque si tratta di uno spettacolo di 2 ore e 10, che tendenzialmente la gente è abituata a fare esperienze di pochi minuti con questa, con i visori. Quindi nonostante la durata, nonostante la tecnologia, abbiamo visto persone anche molto in là con l'età guardarlo fino in fondo e apprezzarlo, insomma, molto, quindi siamo molto contenti. In chiusura ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? C'è il sito internet che è segnaledallarme.com e poi abbiamo un altro sito che si chiama goldvr.it, dove ci sono tutti i nostri, insomma, vari progetti che abbiamo sviluppato in ambito realtà virtuale, non solo, però lì mi raccoglie tutti. Invece proprio per lo spettacolo specifico c'è il sito dedicato, dove si può arrivare alla pagina Facebook, insomma, a tutti i vari collegamenti social. Segnale d'allarme, la mia battaglia VR a Roma, a Teatro Argo, dal 4 al 16 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento all'artista Omar Rashid. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, Omar. Grazie, grazie mille, un abbraccio a tutti. Ciao. Con Fabio Del Greco di Indie Cinema per parlare della nuova acquisizione Festa, il nuovo film di Franco Piavoli, disponibile da giovedì 6 febbraio 2020. Fabio, ben trovato. Ben trovato Federico, a voi e a tutti gli ascoltatori. Raccontiamolo a chi ci ascolta, cos'è Festa? È l'ultimo film di Franco Piavoli del 2016, quindi di un autore particolarissimo, che insomma un po' il massimo rappresentante del cinema indipendente, quindi ci tenevamo molto a inserirlo tra i nostri film, e prossimamente ci sarà anche, speriamo, insomma, il suo film Il pianeta azzurro, tra l'altro il suo film Voci nel tempo, perché insomma il cinema di Franco Piavoli è per antonomasia un cinema fuori dalle regole, lirico, di poesia, in totale controtendenza, ed è un po' l'ispiratore di tutti i cineasti indipendenti che popolano la piattaforma Indie Cinema, che è nata appunto per dare visibilità a un cinema sommerso, a un cinema che esiste da tanti anni, adesso sta proliferando più che mai grazie al digitale. Anche Franco Piavoli, insomma, ha iniziato a usare le tecniche digitali, ma i suoi primi film, nonostante fossero di indipendenza assoluta, sono dei film girati in pellicola. Quindi siamo molto orgogliosi di poter presentare il suo film, che poi è presente solo sulla piattaforma Indie Cinema, e speriamo prossimamente di avere anche gli altri maestri italiani e speriamo anche internazionali sul nostro canale, che sta, insomma, andando sempre meglio, sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico, di abbonati. Siamo all'inizio, una cosa molto giovane che ha solo 2 mesi, però insomma speriamo di offrire un cinema sempre più di qualità. Di Piavoli dicevi della sua caratteristica di indipendente, ecco, cosa hai apprezzato di questo film in particolare che state proponendo? Beh, innanzitutto che è un film come tutti i suoi precedenti che scava a fondo nell'essere umano, è un film senza personaggi, quindi di spirito antropologico, diciamo, e poi che è un film lirico, di poesia, senza una vera e propria struttura drammaturgica, ma che si abbandona ad un flusso visivo, poetico, che il cinema raramente ci offre. Insomma, non sono certo io a dover dire quali sono le qualità di questo filmmaker, però è un film sicuramente che prosegue il suo lavoro e gli dà un ulteriore capitolo importante che ruota attorno al tema della festa, un po' il sabato del villaggio di Leopardi, e quindi questa attesa, questa ingenuità degli abitanti del paese di abbandonarsi per un breve periodo, insomma, all'entusiasmo della festa, dello stare insieme. Fabio, ci dicevi di Indie Cinema, ecco, ci dici un po' da quando avete cominciato a muovervi e quali sono state le prime tappe? Abbiamo iniziato a muoverci nella primavera del 2019 raccogliendo un numero minimo di film che potessero consentire di creare un canale in abbonamento e quindi insomma bisognava partire con un numero minimo di film. Successivamente siamo andati online dal 1° dicembre e adesso stiamo cercando di far conoscere il più possibile il canale e di arricchirlo sempre di più con nuovi titoli, e abbiamo trovato insomma una risposta da parte soprattutto degli autori superiore a quello che ci aspettavamo, cioè esistono oltre agli autori conosciuti del cinema indipendente come appunto Franco Piavoli, ne esistono molti altri che a volte propongono dei film, devo dire, abbastanza sorprendenti. Magari non hanno fatto molti festival, non hanno promosso molto il loro lavoro e quindi sono meno conosciuti, però poi vedendo i film in effetti sono delle cose molto, molto interessanti. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Film Festa sarà disponibile dal 6 febbraio giovedì, tutti quelli che sono interessati appunto a iscriversi possono andare su www.indiecinema.it, cliccando in alto a sinistra su sfoglia, browse in inglese, possono vedere tutti i film, tutte le trame, trailer disponibili, insomma poi iscriversi andando su Start Free Trial. Festa di Franco Piavoli su Indicinema dal 6 febbraio 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Fabio Del Greco. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie di tutto, un abbraccio. Maurizio Di Rienzo, curatore della 14ª edizione della rassegna di documentari Italia Doc 2020 a Roma, Casa del Cinema, dal 29 gennaio al 1 aprile 2020. Maurizio, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Buongiorno. Raccontiamo cos'è questa rassegna che comincia ad avere una sua storia. Sì, è vero, sono molti anni che alla Casa del Cinema c'è questo appuntamento nell'anno, ovviamente i documentari si vedono sempre, per questo Italia Doc deve avere un suo percorso e in questo caso mai come quest'anno ci siamo legati a documentari molto recenti presentati negli ultimi mesi del 2019 a festival importanti e che stanno per uscire in sala sempre a macchia di leopardo, come capita a questo tipo di produzione, qualche volta un po' più ampia ed estesa l'uscita o qualche volta meno, però hanno una loro profondità nel cosiddetto circuito alternativo. Allora, 29 gennaio, Vaccini, nuove lezioni di scienza, mercoledì è il giorno del documentario di questo ciclo di Italia Doc, con una eccezione. La replica comunque dei documentari è sempre la domenica alle 17 e l'orario di inizio è quasi sempre alle 18.30, quasi sempre. Quindi è anche un orario più comodo, diciamo. Allora, Vaccini, nuove lezioni di scienza della poliedrica editrice e regista Elisabetta Sgarbi, è praticamente un'unità di luogo nella quale si succedono 9 brevi e sintetici e illuminanti pareri di immunologi, medici e filosofi sul tema veramente di grande attualità, cioè la vaccinazione sì o la vaccinazione no. Nulla di didascalico, nulla di propagandistico, di ideologico, anzi qualche cosa di ironico e di interessante per una 60 minuti davvero molto originali. Giovedì 30, seconda delle due aperture, prima dei due percorsi tematici in cui è diviso Italia Doc quest'anno, è il film che è stato al festival, il documentario è stato al festival di Torino, Lucus a Lucendo, a proposito di Carlo Levi, di Alessandro Ancellotti e di Enrico Masi, uno dei 5 su 11 in programmazione che sono in qualche modo targati Istituto Luce, che sta facendo un lavoro molto importante di produzione, coproduzione e distribuzione di un certo tipo di storie. Praticamente l'esistenza di Carlo Levi, scrittore, poeta, pittore, scampato alla prigionia nazista e focalizzandone una sofferta, prolifica esistenza fra tempo e storia, insomma è un lavoro davvero notevole. Uno dei due temi di Italia Doc è il cinema italiano, che è rievocato in alcune storie di vite illustri. Il 5 febbraio alle 18.30, mercoledì, Fellini, Fine Mai, di Eugenio Cappuccio, che si avventura nei segreti mai del tutto svelati partendo dei Fellini, partendo dal dato autobiografico, perché lui ha collaborato con Perginger e Fred, e quindi è una, non è una biografia di Fellini, è qualcosa che concerne il suo mondo, il suo modo di lavorare, visto dall'occhio di chi ci ha collaborato. Dopodiché abbiamo il mercoledì 12 febbraio, un film che è stato a Venezia, Citizen Rosie, di Didi Gnocchi e Carolina Rosi, che è un lavoro dall'interno dell'essenza narrativa, sull'essenza narrativa, la passione civile e la incrollabile umanità di questo pioniere, autore, possiamo dire giornalista col suo cinema, che ha denunciato fatti e misfatti, facendo un film coraggiosi quanto spettacolari, inutile Le mani sulla città, I magliari, Salvatore Giuliano e via dicendo. Dopodiché passiamo al domenica 16 febbraio, c'è una eccezione, riguarda l'altro gruppo di quattro documentari sotto il titolo Una certa arte, perché si proietterà alle 17.30 orario speciale Notarangelo, ladro di anime, di David Grieco, a cui seguirà un concerto dei Soballera, che è un gruppo lucano, come evento in qualche modo di chiusura di Materia Capitale della Cultura. Notarangelo, ladro d'anime, raccoglie il messaggio testimoniale del fotografo Notarangelo, sensibile, politico, radicato praticamente sempre nella Basilicata e Puglia, un artista solidale con il popolo e che ha ritratto le contraddizioni della sua epoca, ed è anche quello che ha accompagnato il Vangelo secondo Matteo di Pasolini nei luoghi, nei sassi di Matera, fra i sassi di Matera e fra Matera stessa, come setta. Dopodiché proseguiamo con il 26 febbraio, si ritorna al cinema e si entra nel mondo di Claudio Carigari. Se c'è un al di là sono fottuto, Vita e cinema di Claudio Carigari, di Simone Isola e Fausto Trombetta. Simone Isola è stato uno dei produttori di Non essere cattivo insieme a Valerio Massandrea, e qui abbiamo una sorta di documentario che comprende il backstage di quel film, i ricordi, e in qualche modo mette ordine nella parabola eccentrica del regista milanese che con soli tre film e miliardi di progetti mai realizzati si è legato a Roma, alla sua periferia, alla sua marginalità da un certo punto di vista, creando un'epica narrativa, una poetica narrativa. Sono sicuramente memorabili. Era il nostro Terence Malick prima che Terence Malick ne facesse 8 in 10 anni, ne abbiamo fatti 3 in 35, quindi in qualche maniera, anche se purtroppo Carigari è finito, finendo il suo ultimo film Non essere cattivo. Proseguiamo sempre con un altro mercoledì, il 4 marzo, il 4 marzo è Life is a D-Movie, Piero Vivarelli. Piero Vivarelli, giornalista, viveur, sperimentatore, onnivoro di cinema, è raccontato da Fabrizio Laurenti e dal nipote Niccolò Vivarelli, che è un apprezzato giornalista di Variety dall'Italia, perché approfondisce tutta la bulimia pop di Vivarelli, che inventò il filone dei musicarelli e praticò tutti i generi, dal western al giallo, anche al drammatico, con una disinvoltura rivoluzionaria, anche se non, come dire, omologa a certi tempi politici. L'11 marzo, Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, di Giancarlo Soldi, che è stato alle giornate degli autori del Festival di Venezia. Un salto nella Milano negli anni 60, che era all'avanguardia estetica, in cui il grande disegnatore Guido Crepax, ispirandosi a casa propria, e non dico altro per chi non lo sapesse, crea questa Valentina, personaggio suo chiaramente più famoso, un'icona prefemminista, erotica, anticonformista, che è rimasta nella memoria di quanti anni gli anni per ricordarselo, e il documentario è anche una sorta di docufiction con l'intervento di, insomma, parti in qualche modo recitate, filmati d'archivio notevoli e tante interviste a registi e fumettisti di oggi. È davvero un film in cui poi Soldi, da grande esperto, uno che ha realizzato già Diabolico sono io, Come a Tex nessuno mai, è un documentario sull'introvabile di Tiziano Sclavi, insomma da grande esperto ci ridisegna il mondo di Guido Crepax. Gli ultimi due sono Emilio Vedova, Dalla parte del naufragio, di Tommaso Pessina, il 18 marzo, sempre alle 18.30, e sempre le repliche della domenica. 100 anni non soltanto di Fellini o di Sordi o di Torino Guerra, 100 anni dalla nascita del pittore Emilio Vedova, anarchico, impegnato, fisico nel rapporto con la tela, che visse quasi sempre a Venezia. Quindi sono quadri, interviste, incontri, registrazioni, filmati sul suo modo di lavorare. E la parola di Emilio Vedova letta calibratamente da Toni Servillo, perché sono brani del diario di Emilio Vedova. Un film veramente molto interessante, diverso da quegli eventi sull'arte che vediamo di solito, ma è un documentario che parla di questo notevole artista. A proposito di una certa arte, a chiudere, appunto, dopo i film su Notarangelo, Emilio Vedova e Crepax, ecco, mi chiamo Altan e faccio vignette di Stefano Consiglio, che chiude Italia Doc mercoledì 1 aprile. È un film che è stato a Festival di Torino, una intervista, ritratto dell'indefinibile Francesco Tullio Altan, della sua vita appartata in campagna, il suo sguardo satirico, i suoi amici, una filigrana, diciamo, di racconto che con interviste, appunto, e altri filmati e ricordi dell'inizio del lavoro di Altan, ritrae inevitabilmente anche l'Italia degli ultimi 40 anni. Quindi questi sono gli 11 documentari di Italia Doc, due aperture: Vaccini, nuova lezione di scienza di Elisabetta Sgarbi, Lucus a lucendo di Lancellotti e Masi su Carlo Levi, e poi il binario Giganti e outsider di cinema e una certa arte, sul binario dei quali scorrono tutti questi treni di documentario. Ho visto che per tutti i riferimenti c'è il sito internet della Casa del Cinema. Sì, come al solito, ci sono un po' di informazioni. Ah, non ho detto la cosa più ovvia: sempre documentari presentati dagli autori e dibattuti con il pubblico dopo, come consuetudine alla Casa del Cinema, quindi presentazione breve e chiacchierata, il dibattito sì. 14esima edizione di Italia Doc a Roma, alla Casa del Cinema, 29 gennaio fino al 1 aprile 2020. Un saluto e un ringraziamento al curatore Maurizio Di Rienzo. Maurizio, grazie, un abbraccio. Grazie, e salutiamo anche il direttore Giorgio Cosetti, che per i documentari ci spende abbastanza. Un in bocca al lupo e a presto. Crepi, buone cose, ciao. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.